con Joshua Valen, co-regista del documentario Voci dal Silenzio, un viaggio tra gli eremiti d'Italia, che sarà presentato all'interno della settima edizione della rassegna Sottili Innesti Amorevoli presso la casa laboratorio Ca' Colmello a Sassoleone, in provincia di Bologna, sabato 1° giugno 2019. Joshua, ben trovato. Grazie mille, ciao Federico, buonasera a tutti i radioascoltatori. Che racconto è questo? Ma è un racconto molto, molto particolare. Noi siamo andati a cercare una serie di figure lungo la penisola che avevano deciso di abbracciare la vita attraverso magari dei ritmi completamente diversi, a partire da un ritiro e quindi da ampi spazi di solitudine, nel tentativo magari di ricostruirsi come uomo e poter arrivare all'alto, poter vivere una vita piena e poter mettersi in ascolto non solo della natura, del mondo circostante e di tutto quello che di divino c'è all'interno di questi contesti, ma anche e soprattutto essere un uomo attento nell'incontro con l'altro. Ciò che può sembrare paradossale perché si guarda all'esperienza eremitica come a un'esperienza di totale reclusione, ma chi vedrà il documentario, approfondirà il tema, vedrà chiaramente così. Gli eremiti hanno ben a cuore il rapporto con gli altri. L'origine del progetto, dell'idea di filmare questa storia, com'è nata? Ma in realtà è sempre difficilissimo far convergere in poche parole, no? La genesi di un lavoro o di un'intuizione. Noi le prime figure eremitiche le avevamo incontrate 10 anni fa, quando stavamo facendo un progetto sui ricercatori mistici. In realtà pensavamo che fosse importante creare un ponte tra due realtà che comunicano poco, quella appunto dell'eremita, la realtà dell'eremo, e quella di una società che è sempre più calata all'interno di un contesto fatto di rumore, frenesia e poca attenzione. Insomma, pensavamo che all'interno di questi luoghi, diciamo protetti, dove il silenzio fa da padrone, potessimo raccogliere delle testimonianze che non avessero necessariamente un colore religioso, ma un forte colore universale, quindi raccogliere le testimonianze che possano essere utili a tutti per ricentrare il proprio modo di stare al mondo e orientarlo verso delle priorità più alte ed equilibrate. Dove avete ricercato queste vostre storie? Ma guarda, noi siamo partiti a bordo di un camper, l'abbiamo attraversata tutta l'Italia, abbiamo attraversato da nord a sud, quindi in un certo senso abbiamo mappato quasi l'intera penisola. Chiaramente non è semplicissimo entrare in contatto con queste realtà. Però con un po' di dedizione e un po' di attenzione delle ricerche non è nemmeno così difficile. Diciamo che abbiamo sicuramente goduto della collaborazione con Federico Tisa, un fotografo torinese che aveva attraversato a sua volta l'Italia a piedi dopo la morte di un amico cano, appunto per esorcizzare questo momento o comprenderlo meglio a partire dall'incontro con gli eremiti. Da questa collaborazione sono arrivate le prime segnalazioni e poi abbiamo anche lanciato il progetto in rete, per cui con un crowdfunding che è andato particolarmente bene e le persone avevano la possibilità non solo di sostenere il progetto, ma anche di segnalarci tutta una serie di figure che ai loro occhi valeva la pena incontrare. Quindi grazie anche a questa segnalazione, oltre ai tanti testi che parlano di eremitaggio, siamo riusciti a crearci diciamo, quella che poi è stata la mappa dei nostri incontri. Oltre a quello che accennavi, in che rapporto sono questi eremiti con le rispettive comunità? Guarda, il rapporto in realtà una cosa mi ha impressionato quello che accennavo prima, no? Il fatto che noi guardiamo all'eremita come una figura totalmente isolata. Ora chiaramente noi abbiamo il nostro progetto è nato in Italia, quindi la maggior parte degli eremiti incontrati è di tradizione cattolica, anche se poi tutti gli eremiti che abbiamo incontrato non portano in scena la propria tradizione di riferimento, ma cercano appunto di fare un discorso che possa superare le distinzioni e arrivare a qualsiasi uomo. Il rapporto con la comunità dei cattolici, degli eremiti cattolici, chiaramente è molto, molto forte, ma non è solo appannaggio loro. Molto spesso provengono da una vita cenobitica, quindi anche una comunità di fratelli da cui provengono. E nel tempo anche le persone che vivono magari nel paese più prossimo a dove sorge l'eremo, magari in 10, 15, 20 anni, anche la comunità vicina si accorge del potenziale di questo percorso, del fatto che magari in questo eremo lontano dal brusio del moderno, nel bosco magari vive una persona pronta a dare grandi consigli, pronta ad ascoltare, ad accogliere con molto amore. Faccio un caso su tutti, per esempio c'è Swami Atmananda, lui si definisce un eremita indocristiano perché attinge a entrambe le tradizioni. Quando si insediò forse non era visto benissimo questo santone indiano dalla comunità cristiana vicina. Dopo 20 anni è stata lo stesso paese che ha deciso di fare una colletta per garantire almeno che dal tetto non piovesse acqua e quindi ristrutturare l'eremo, visto che Vami da oltre 25 anni non tocca denaro. Che impressioni ne hai ricavato alla fine di questo viaggio? Anche questa non è una domanda in realtà semplicissima. Penso che forse la cosa più importante che mi porto dietro da questa esperienza è che i cambiamenti hanno bisogno di lungo tempo. Gli eremiti in fondo ce lo dimostrano con le loro azioni e con i loro racconti, però quello che mi porto dietro è la fiducia in questo cambiamento, nel senso che un certo tipo di attenzione, che sicuramente il silenzio favorisce, ti permette anche di capire come stai indirizzando il tuo tempo, le tue azioni nel quotidiano e quindi pian piano comprendere a quali pensieri, a quali azioni aprire la porta e a quali è meglio non dar nutrimento. Ecco, questo genere di attenzione che alcuni degli eremiti che incontravamo ne parlavano in termini lotta spirituale, però questo genere di attenzione è un qualcosa che possiamo portare nel quotidiano anche all'interno delle città ed è un confronto leale con se stessi che ha la possibilità anche di trasfigurare in bene la qualità del nostro vivere. Ho visto come riferimento web che c'è una pagina Facebook, Voci dal Silenzio, ci sono altri spazi? No, principalmente il canale che abbiamo adottato, c'erano delle campagne di crowdfunding durante la fase di realizzazione del progetto che adesso sono terminate, quindi attraverso la pagina Facebook è possibile guardare alcuni estratti, alcuni contenuti extra, trovare delle informazioni sul progetto, mettersi in contatto anche eventualmente con noi autori. E allora ricordiamo l'appuntamento con la proiezione del documentario Voci dal Silenzio, un viaggio tra gli eremiti d'Italia, all'interno della 7ª edizione della rassegna Sottili Innesti Amorevoli alla Casa Laboratorio Ca Colmello a Sassoleone in provincia di Bologna, sabato 1 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al coregista Joshua Valen. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a voi, grazie ancora, buona giornata, ciao.